capito? Non fa... Oh, vabbè, pure all'estero alla fine, vabbè, per fare la ricostruzione devo fare 3-4 interventi, mi ha detto, come cazzo ne so. Vabbè, lui anche loro c'hanno ragione, uno è una pastiglia di Viagra, l'altro perché devono fare il pene nuovo. E sì, che è vero, eh. E vabbè, dai. Pensate che ci sia la salute, poi vabbè. Anche quello, purtroppo, anche la masticazione conta molto, per lo stomaco, queste cose qua. E vabbè. Tu come hai mangiato una pizza, l'ho presa da Danilo, buona, Sì, molto buona. Ha migliorato un sacco, ragazzo, L'impasto, proprio buona, friabile la pasta, buona veramente. Ma che Danilo, quello di Ottavo? No, sette mele di Pisa. No, perché io mi ricordo all'inizio non è che non mi biasiano, non era questo granché. Adesso ho notato che era sì, buona. È molto buona, sì. Vuol dire che ha migliorato due tanto, io ti dica. No, adesso c'è un forno nuovo, io ripeto, già lo sai che io mio fratello, praticamente di pizza ne mangio molto nel foglio grasso, però quando fa l'offerta il mercoledì che magari non ho voglia di fare niente, magari che sono la campagna, che la prendo sempre, 10 euro la pizza, che lui ha l'offerta a 10 euro, tutte le pizze condite a 10 euro e tutte le danno una bottiglietta di, che ne so, aranciata, non ancora, di però te la regala. Bizzarro. Vabbè, dai, riprendete un attimino che ci mi sta chiamando Maria, riprendi Gianni. Ehi, dai, riprendo e vi saluto tutti, stavo aspettando che mollassi per salutarvi, dai, che porti il cane giù. Ci sentiamo, ciao Antonio, ciao Antonio 2 e anche a Luca, dai, e tutti gli eventuali ascoltoni, ciao. Ciao già, ciao, mi raccomando, fateli portare su dal cane, Mi prendi Antonio? Ehi, bravo, bianco per me, dai. Ciao già, ciao a tutti, che io... faccio bianco che dopo aver mangiato devo andare a Calabar. Devo andare a Calabar? Lavarmi, farmi la doccia. Ah, va bene. Dopo aver mangiato devo andare a Calabar. Bene. Ok, c'è qualche di altro? No. Che dai. Ciao. Devo scendere subito. Ciao, buona doccia. C'è qualcuno altro? Vabbè, dai, io chiudo battenti che vado a guardarmi la TV. Adesso porto il cane, ci sentiamo domani. Ciao Anto, se ci sei, ciao Gianni, ciao Antonio Bombolo, ciao. Ciao Lu, ciao, ero qui, mi stavo parlando due cose. Ciao, ci sentiamo. Buona passeggiata. Mi hanno portato una cassa di quelle Bluetooth, tanto quelle grandette, dai. Aveva preso a cazzo un mezzo chilo lì, praticamente hanno rotto il connettore che è come quello del telefono, dove carichi la batteria. Infatti domani me lo smonto, vediamo un po' se c'ho qualcosa io, se no devo procurarmi uno di quei connettori che riesco ad agganciare lì. Solo di fare la modifica di metti con la farina, va. Solo stavo pensando. Di procurare un alimentatore da un caricabatterie da 5 volt e metto uno spinotto di quelli a rotondi, diciamo, quelli, uno di quelli, tipo quelli del computer. È un jack normale. È solo caricare con quello. Per quanto ti dai alimentazione, in qualsiasi modo gliela dai. Solo di considerare che nella USB ci sono due inglesi di bezzi, No, ma ho già fatto su un coso, tanto, uno, quei così, quelle casse piccoline portate di Bluetooth, dove? Sì, però ripeto, c'ha due contatti positivi e uno negativo, devi alimentare tutti e due. No, scusate, allora, la batteria ha un negativo e un positivo, io mi aggancio direttamente lì e si carica la batteria da lì, invece di passare dalla scheda, capito, e funziona uguale. Ah, la bypassi completamente? Sì, ma c'è direttamente la batteria, poi con l'alimentatore da 5 volt la carica, perché quando lo stai caricando è rosso, poi una volta che diventa verde la batteria è carica. Certamente, che è? E lui che fa il bus, adesso vediamo là, domani me lo smonto, ma stai saldando? Se te lo dico non ci credi. Bah, intendi? No, sto saldando due valvole in un vecchio BV131. Che cazzo? Ma gli stai saldando, non vanno in casso? No, perché sto facendo la modifica del BV131, ne ha una di valvola. Ah, gli stai mettendo due? Sì, ne ho messo un altro zoccolo, gli ho fatto i quei circuitini, sai, quelli forati, qui con le piastre forate. Adesso sto saldando dei condensatori di capacità per lo scarico a massa e poi lo voglio provare magari più là. Ecco, che tu che lo segnalone di brutto, che te pensavi che prima non ti sentivo, poi c'ho quella antenna arrende. No, questa antenna davvero è blu, io posso dire una cosa, non ne ho mai avuto in tutta la mia vita stessa così, anzi l'ho disprezzata per quanti anni ho modulato, però ti posso dire la verità, che a parità quello che ho speso, che comunque è cara, rispetto ad altre antenne, però non c'è paragone. Che sicuramente sono sicuro che il vento me la butterà giù. Vabbè, lì ti da, guarda, io ho stazionarie. Uno e uno, Antu, non so tu come sei messo, uno e uno. Guarda, io l'ho tarata. Allora, nei 40 canali normali neanche si muove, nei 40 canali sotto neanche si muove, nei 40 canali sopra si muove poco a poco, inizia a salire a 1 e 2 da 27.500 in poi. Sì, ma chi li ha regolate queste stazionarie? Chi li ha regolate? Tu qua, vabbè, se lo scendi di calo poi da solo mi viene un bel male, capito? Viene un bel male, poi la Marese, un Marie, sforzami poco a poco il coso, quasi mezz'ora, fallo subito, ma sei veloce, poco a poco, no, invece no, devo aspettare lì, e beh Marie, e vai, dopo di mezz'ora, cazzo vai, e altro io le cali bassi, ma ce li ho un po' alte, a 5. A 1 e 5? A 5, a rosso, rosso. A 5, mamma così. E tu basta scommettere come, basta venire qua e ti dimostro che ce li ho a 5. Ma vai. Guarda, se vuoi ti mando una foto. Cazzo a 5 veramente? No, non è possibile. Cazzo a 5 è come se fosse un corto. Cazzo, più di 5 salgo, proprio rosso, rosso, sì. No, dai che non è possibile. Aspetta. Nei cani alti, ma quando alti? Nei cani bassi, quando balzi? No, dai. Questa qui io te la ho accordata. No, vabbè, dai. Claudio. All'anto, 1,8. Prima era una 5, poi me l'ha tarata Claudio spostandola e facendola. 1,8. Ah, 1,8. Che fa 5? Non ve ne è antenna. 1,8 sono alte. Potresti giostrarti di più. Te l'ho detto io, la mia, l'ho voluta tagliarla un pezzo. E invece canale banda A, non so, 26, è l'ultimo, su cosa sia, 1 e 1. Sì, però già lo sai, quando ti consegni il stazionale devi fare tutta la procedura, anche la volta, Sette, arrivare a fare lo scala, non è che l'hai fatta? Sì, sì, e beh, per forza. No, io, ripeto, l'ho voluto tagliare un pezzo, te l'ho detto, sarà 12-13 cm, però gli ho dovuto tagliare proprio del tutto. Allora, in banda A, ma così muove, poco a poco, cioè in banda B, scusi, in banda A ce li ho 1,7, 1,8. Poi a 45 lo stesso 1,7, 1,8. Vabbè, banda A, tu devi capire che 25, da 25, 605, più o meno per l'antenna che le stazioni sono giuste, però su questi 40 canali quanto hai? Ah, aspetta un attimo, aspetta, allora 45, 1,3, infatti io mi ricordavo di più, ma siccome l'abbiamo tratta con Claudio e mi sono dimenticato di prima, che prima non era tratta bene, 1,3, 1,4, dai. Va bene, su 45, ma nei canali 40, nei canali normali, dall'1 al 40. Aspetta. Vai all'1 e vai al 40. Allora, all'1, 1 e 1, proprio 1 e 1, poco a poco si muove, al 40, 1 e 3. No, va bene, giusta. È giusta. Potrei stare arrivando io a te? Vabbè, qua sto andando con... Tre 10 watt di schiaccio. Vabbè, tu considerati che io sto usando il Golden Test 4008, sta arrivando 9 più 20. Guarda, comunque mi ascolti bene bene, senza QRM sotto. No, QRM non c'è, è che intanto io ho una scarica elettrica a Santiago 5, ma deve essere l'antenna però. Che lo sai, no, che il buco di queste antenne è che si tirano le correnti elettrostatiche. Claudio, ci sei. Sto facendo cosa? Vendi cosa? Sempre vendi cosa? E cosa si fa, Docla? Cosa si fa? Sempre facendo. Sta aspirando le ragnatele dagli angoli. Allora, la biscitta. Dagli angoli, allora, mi ha tolto lo suo buco. Aspetta, no, quindi si va trovata. No, comunque sì, ma se il segnale è buono, è molto buono. Devi considerare che comunque per arrivare alle 9.30 qua con questa antenna devi essere sotto casa. Oh, Claudio arriva alle 9.30, comunque. Vabbè, già vuoi fa. Già andare così, lascio tutto così. Quello qua non va negativo, veranto. Fai un po'. 1, 2, 3, prova, hola. No, ma a me no, sei poco meno di 17, 18 e vai sul 20, no, non sei negativo. Andava. Se faccio non lo smetto mi va negativo. Invece non lo smetto va positivo. Vabbè, la lucida. Ma qua sei in positivo comunque, non sei in negativo, sono per avere. E niente, poi ricordati che io ho sempre questo smitterino qui, così non è che è niente di eccezionale. Hai fatto un ottimo lavoro Antu, bravo, un ottimo lavoro. Mi ascolto, non sono neanche soddisfatto, eh. Oh, c'ho già l'acquirente, però sono ancora soddisfatto. Se non riesco a soddisfarmi entro due giorni lo faccio fuori. E di che cosa? Ma perché cioè, non ho capito, perché è per il baracchino? Per questa radio, sì, non sono molto contento. Ah, che ci vanto, di lusso, va bene la radio. Va benissimo, ti ascolto, ma io lo stesso sto usando un microfono normale, della Intercat. Anche io, però all'inizio quando ho iniziato a modulare era freddo, era un po', non è che lo stavo facendo male, figurato, io non sono abituato a queste cose, se mi si girano le palle. Oh, ma lo vorrei comprare quello che me l'ha dato, nel senso che ci abbiamo fatto quello scambio famoso, ce lo vorrebbe anche ricomprare, non è che... Ma io ho sempre l'intenzione di prendermi qualche altra cosa, ma... Si vedrà. Non so cosa vuol dire che baracchino, ma non me l'hanno mai visto. No, questo qui è un 140. Ah, 140 stai usando? Sì, è un 140 che ho preso da quell'amico mio, da un amico mio di oggi, che me l'ha dato un cambio di dorato in multimodo 3 con la sella del 45. Questo qui era come finale bruciato. Praticamente bellissimo, niente, l'ho cambiato, però non sono molto soddisfatto, non lo so, quello che avevo anni fa, che avevo venuto a Claudio, andava molto meglio. E anche io volevo quella di Claudio, che usciva una bellezza con la radio, va bene veramente, molto bene con la radio, proprio era un bijou, nuova, l'unico pecco che avevo con la radio è lo slider dove c'è quello dove aumenti il watt, se mi costa il watt, oppure l'amplificatore che era un po' consumato, ma del resto era nuovo, fiammante, l'avevo aperto, tutto pulito, c'era un po' la ventola, un po' di polvere, ed era veramente nuova la radio. Ma io gli ho detto a questo ragazzo l'altro giorno, guarda che ieri ho fatto 10 ho detto, dice la radio, questa sta già funzionando, questo sta già funzionando, ho fatto anche dei collegamenti con Sassari Alto, ma vabbè, l'ho sistemato, sì, ah, ma cioè, cosa fai? Dice, ma cerchiamo di venderla. Io ho detto, non lo so, vediamo, se la vendono meno di 300 euro comunque. Beh, l'hai anche aggiustata, se permetti. No, ma comunque fiammante, questa è... cioè, se tu la vedi... dice, ma l'hai tolta adesso dalla scatola. Il rubus immagina... oh, yeah. Ma però che ce l'aveva sempre a casa, nelle scaffale, nella mensola, e ogni tanto parlava, non so se neanche con chi, perché io l'autista, perché non è cazzo fa, dice che parlava con casa, io come si vede, comunque, dice che parlava, un giorno si è messo in testa di andare con gli amici su in montagna, con la base magnifica, sono accappata, sono portata appresso, ha fatto due passaggi e l'ha cribato. Ma l'ha collegata alla batteria della macchina? Sì, l'ha collegata alla batteria della macchina, però sicuramente ci sono salite le centrali a 1000, che non è possibile, se no avrebbe avuto un problema di alimentazione. Gli ha proprio ustionati il finale. Buono, no, già io ti ascolto benissimo. Niente, se mi dà 300 euro glielo rimollo e io mi voglio prendere un 706. Bello il 706 lo stesso. A me piace, perché io voglio quello piccolino, però, che è un veicolare, come si chiama? Ah, il piccolo, il PS50. È carino la radio, invece un bel. Sì, ma il modulazione della M era una merda, però. Non lo so, non ha dato un grosso successo. Ma se non mi ricordo male ce l'aveva anche Claudio, ovvero Claudio, c'avevi quella radio tu, anni addietro. No, Claudio non è tipo che ha avuto PS50, non ci credo. Ma se mi ricordo che l'ha avuta lui, o chi l'ha avuta? Boh. Che cosa c'era lui? Boh, vabbè. Vabbè, tanto, io ti lascio. Niente, dai, ci aggiorniamo domani, se ci sei, sicuramente ci sarai. Così mi riposo, chi so più, poi anche cenato, guarda, mi sta avendo la bianco qua. E gli hanno già, intanto io domani mi hanno chiamato per fare queste quattro riparazioni, poi sto una settimana libera, più o meno, io ti auguro di meno, ma... Ehi, vabbè, tanto, chi so chi è, a me chi so chi mi ci vostro, perché se non mi nesci mi manco fermo. Poi, vabbè, ci sono... vari punti, a secondo dove devo piazzare l'antenna, secondo se è molto alto, è un casino che viene male, o per di vita. Vabbè, dipende sempre da tante cose. Anche a me, vedo che ha fatto le grondaie al mio palazzo, l'altro giorno mi ha detto, no, io non lo faccio il lavoro, però io non lo faccio lavori del genere, in un condominio mi porto una persona, dice te la do io, no. Io mi porto una persona che ha già pensato a te, una persona che ha fiducia, una persona che sa come lavoro e che sa quello che deve fare. Io di gente così non li voglio, se ho tanto voglia di atarasura. Ma quella abbiamo pensato lui? No, mi ha chiesto per una palazzina di Mare Sole, sono 42 appartamenti, e io ho detto, sì, in ogni caso, ho detto, non è solo cambiare antenne, ci sono da vedere i quadrituri, puoi sintonizzare, cioè lo sai quando cambi le antenne in un palazzo da 42 appartamenti, no? 42 persone che ti rompono le palle. Sai che poi ogni tanto i televisori vanno in casa, lo so, ti comprendo tu, ti capisco, no vabbè io già, diciamo poi ovviamente anche con l'aiuto tuo, mi lui fai così, poi ho imparato, là, non ho di grosse difficoltà adesso. Le difficoltà arrivano quando sei in un punto dove non prende, allora lì hai bisogno dello strumentino che un po' ti aiuta, anche quello piccolino, allora, a me molto mi aiuta quello, di busso lì, guarda, non molto, di più. Ma io ti posso dire anche che è relativo, perché in ogni caso le antenne sempre in quel senso ma non più tanto, cioè non è come un'antenna satellitare che per forza devi avere questo preciso, l'antenna terrestre una volta che sai dove è il ripetitore, più o meno, chiaramente, non è che se il ripetitore ha pronta mona tu me la punti a use, però diciamo, basta che guardi le antenne che si mettono a te sia se ne fai una ragione. Il problema è quando stai piantando un'antenna satellitare, che allora lì subentra il dramma. No, ne ho piantato una vicino a casa, tanto gli ho fatto un capolavoro, invece ne facette bene, proprio un atteggiante, un lavoro, guarda, poi gliel'ho anche ancorato, anche se il palo era fermo, era forse uno dei migliori, poi nel tetto dove abito io lì, guarda, fanno schifo, la mia ma è legata a coso, a corda, perché le strappe sono di quelle messe, come si chiama, a tassello, no, quelle lunghe. Purtroppo lì è foratino, è attaccata la canna fumaria e ballava il buco, frente oggi, frente domani, ha allargato il buco, allora l'ho dovuta legare con una corda. Però questa qua che ho piantato io è fissa, però ancora di più gliel'ho ancora, cioè gliel'ho ancorata col fil di ferro, come era prima, perché era la sua, e non si muove niente, non è nulla, tu, proprio zero. E vedo tutti i canali, prima non vedeva niente. E gli ho fatto anche, vabbè, un pezzo buono, no? Hai ricordatelo sempre, no? Mai puttanarsi per due lire. Chiedi solo che fai un lavoro, gli chiedi intanto giusto che tu ci guadagni, non ti richiedi per esempio, che ne so, 10 euro in meno e gli fai una cagata. O glielo vuoi fare il lavoro fatto bene, o non gliene fai, perché poi alla fine, anche se io oggi hai guadagnato, che ne so, 50 euro invece che 80, arrivato una cagata, vuol dire che poi tu per non continuare a lavorare più, invece è sempre meglio essere precisi, dire no, ne voglio 80, però io per 80 ti faccio quel lavoro, che non chiedere mai 60 e poi ti sputtare perché tengono che tu 60, ma io ne sono ancora, che ne costa 20, poi quello di capo gli ho messo, gli ho lasciato lo stesso, come fanno molti, anche lo sai che piuttosto lui, c'era un ragazzo di Canada che stava lavorando qui nel mio palazzo. Oh, e chi è? Un giovane, una Peugeot scura. Una Peugeot scura, boh, Peugeot scura. Che altro che ti conosce, altro? Dice io che sono in Canada, detto, questo lo conosci Luca? Sì, sì che lo conosco. Peugeot scura. Ma sta facendo manovale muratore, cosa la fai? Un muratore, penso muratore, poi non so se manovale, stavano sostituendo la grondaia qua, stavano lavorando con un'impresa, una Peugeot 206, o blu scura o nera, non lo so, o blu o nera lui. Sto pensandoci non so chi sia, ma lo conosco, Canada, vabbè Canada è grande, non è piccolo, ci sono varie vie tu. No, vabbè, tornando al discorso di prima, no, se ti sputtano, le cose di vostro, beh, poco fascetti, a secondo metto anche l'altro sopra, le fascette, poi se ce la mettono uno spinotto lo aggiungo, partizione lo stesso, io parto già, che risparmio con la cifra lì, poi se ce la aggiungere un paio di metri di cavo in più non mi interessa, sai, queste cose qua non le guardo. C'era a mettere il partitore di tasca mia, lo metto ugualmente, anche se prima non ho fatto il preventivo anche per il partitore, non me la futti nulla, comunque ne faccio bene, non, per fare cagate manco ne faccio, poi come dici tu, io glielo dico, se volete un'antenna buona a questo prezzo qua, se volete un'antenna meno buona avete voi, sì no, va bene così, anche un'antenna meno buona, però basta che si veda nei canali, va bene, e io vado, compro, poi faccio. Sì, esatto, io lo stesso mi metto nelle condizioni di poter scegliere. Io ho fatto sempre dal presupposto che io installo fraccarlo, perché sono però se tu vuoi un'antenna meno cara, che poi alla fine tu stai risparmiando 20 euro, non risparmi un cazzo, perché tra quelle antenne di merda le fraccate ci sono 20-23 euro di differenza. La manodopera è sempre la stessa, come tanto, se mi salire sul tetto, a piattare una, a piattare l'altra, il cavo è sempre lo stesso, partitori, miscelatori, alimentatori, amplificatori sono gli stessi, quindi alla fine 20-30 euro di differenza, però c'hai 5-6 anni di antenna in più, fatti un conto, sono 5 euro l'anno, non le puoi spendere, un pacchetto di sigarette all'anno. Sì. Io mi ricordo bene, io ho sempre comprato da Mugiano, quelle che facevo a lui. delle griglie che facevano loro, poi hanno fatto anche le verticali. Altro va via 23 anni, va via, sempre andando. Sotto era completo, non era marcio, ecco, Mario Rossigatto. Poi gli ho fatto tutta l'antenna nuova, con palo, miscelatore, tutto. L'ho collegata, gliel'ho puntata prima, ma una volta puntata, ho fatto la scansione, tutti i cali, perfetta. Poi era un'antenna di quelle che ha cubarato anzù. Ma bello, ma se la scelta lì, te l'ha detto lì, voglio un'antenna a spendere poco. No, io gli ho fatto preventivo per quel tipo di antenna lì. Poi gli ho detto, se tu vuoi spendere di più, io ti compro antenne più buone e spendi di più. No, no, ma va bene così. Perché se non sei attento, molte volte ci spendi di più in tubo, in palo che in antenna, No, più di 16 euro. Sentite. Anto. Sì, te le ricordi le Fusaro, le antenne Fusaro? Quelle che facevano loro. Anzi, ce ne avevo una che minimo c'era più di 25 anni alla finestra. Buonemi! Io ce l'ho ancora una in campagna, quella con l'attacco dell'antenna, con la scritta Fusaro. C'ho ancora. La utilizzo come antenna VHF marino. Funzionava bene, mi cavolo. C'è antenne che sono durate anche 30 anni, sempre funzionanti bene. Poi avevo comprato una a mio nonno, minimo c'era più di 25 anni, quelle a griglia, sempre funzionava. Poi lì a Latte Dolce ne avevo comprato un'altra, non mi ricordo, adesso ce l'ho più di 10 anni lo stesso, sempre perfetta, sempre funzionante. Beh, quelle antenne di Fusaro le vendeva quando aveva il ripetitore a Monte Alvaro, che c'era il ripetitore di sua proprietà, Vittorio Fusaro, buon'anima. No, Antu, io le ho prese lì da Fusaro le antenne, le ho prese da Bricco, ben capito. Poi c'è una signora, le ho prese, una signora anziana, tanto sicuramente morì da prima lì, perché c'ha 86 anni questa signora. Le ho pensato da poco, e poi se ne guida ancora la macchina. Sei tranquilla che muore prima lì dell'antenna. Ma scusa, perché non ti fai fare un prezzo da Fabio? C'ha antenne da spendere poco, che male risparmi. Chi è Fabio? Quello vicino a cosa? Dove vado sempre? Chiedilo, dici, guarda, per fare impianti da poco costo, c'hai, mi puoi provare, ogni tanto lui porta queste antenne così, diciamo, da proporre a poche lire, a pochi euro, queste antenne così, diciamo, funzionano comunque bene. Vabbè, ma anche quelle di Fusaro ho notato che sono meglio di quelle di Bricco, ma... lo so, però se ti propone qualcosa a fare, sono meglio di quelle di Fusaro. Perché a me non ti volano dalle staffe. Antu, magari se capita che sei libero, magari ci facciamo un salto, vediamo un po' cosa ci propone. Io magari posso anche comprarle, se mi fa un prezzo buono, magari le compro due e due, capito, una U, due V, due U, e me le metto da parte, lui ce l'ho già, quando mi esce un lavoretto, ce l'ho già, vado e faccio quello che devo fare. Beh, lui me le propone sempre, quando vado io compro lì il materiale, potrei comprarlo anche da Gianni, non ci sono più andato, prima Gianni lavorava per loro, però me le propone sempre, dico no, non voglio frattarlo, mi ha detto guarda che, dice sempre, guarda che c'è queste antenne che sono buone, no, io ho detto che metto fra il carro, ma risparmi 20 euro in questa, 16 euro nella no, me ne ho fatto nulla, voglio fra il carro, molte volte me le propone, sono antenne buone, una volta solo, paio d'anni fa l'ho preso, non mi ricordo neanche perché. Però sono ancora lì, Ascolta una cosa, le fraccarro quanto costano? Beh, ti consiglio perché la fraccarro io, la prima VHF, la pago, mi sembra scontata, il vanno e tutto, sotto, poco sotto le 20 euro, 22. Che cazzo, allora le prenderei a occhi chiusi. E vabbè, tu, io, che se no te la farà pagare a me. Vabbè, ma io me ne prendo un cazzo, fino alla settimana ne compravo 10 alla settimana. Vabbè, tu. Perché magari tu hai il tuo giro, magari hai qualcuno, non so che giro, che tipo di giro hai. Io a me mi chiamano, sai, Antonio, ti faccio un esempio, Antonio sa che io per tanti anni mi chiamo amici, un mio amico, li sappia se, faccio un esempio, no? O viceversa, che mai lo chiedo a me, mi Antonio, e poi così la voce si sparge, e così. Invece a me ogni tanto, non è che, magari Antu, magari. No, ma io ripeto, cioè, ho un amico che a Olbia fa tipo il mio lavoro, non fa proprio la tennista, però ha un ragazzo tipo te, no? Che fa questi lavori qui, li fa fare a lui e le antenne gliele porto io, gliele compro qua e gliele porto io. Ho capito. Ah, capito. E tu la tua antenna non la sai piazzare, bomboli? Io. E secondo te non la so piazzare l'antenna? Quanto è la televisione, mi? E allora no. È l'ultima volta che la porto umano, che non se ne comprendeva un cazzo cosa avverai, no? Che... c'era, però, ho capito che c'era lo spartitore che non andava. No, allora, uno è il partitore che non andava, ok, ci sta. Se io ti do delle antenne imbustate, un esempio ti sto facendo, ma le piazzi, tu cioè, se sei capace a piazzare e a fare l'impianto? Certo che ci sono capace. Vabbè, meglio così. Meglio così, senza strumento, senza niente. Se la piazza non ti preoccupa. E lo strumento non ce l'ho, un tempo ce l'avevo. Però già lo solo per Monteoro, non ti preoccupa. Basta guardare all'incirca, all'incirca dove sono le altre, lo vedi com'è. Vabbè, non è detto, secondo me ti trovi in un punto che magari ti c'è difficoltà e vabbè, cioè ti siamo compresi, e magari non trovi segnale, io comunque lo uso molto spesso, qui sono sicuro e vado alla grande. Ma qua non penso ci siano problemi, se succede qualcosa qua. Io ho fatto una taccabitura, apro il cernaio, prendo la scala e un brinco gioco sopra. E se ti porto a Castelsardo, dove me la punti l'antenna? A Oslo. Allora, tutto a Castelsardo, non mi ricordo se è l'UHF, VHF, uno dei due, o forse tutti e due, devi girarla, devi. Perché hanno la polarità diversa, però non mi ricordo dove, forse bisogna puntarla verso il castello lì, non me lo ricordo tanto bene. Sì, lo rientro. Però è preparato. Sì, sono preparato, sì. Mi sembra anche Alghero, mi pare che bisogna girarla, non me lo ricordo adesso. Sì, l'antenna VHF, polarizzazione orizzontale. Sì, ha detto una cosa buona Luca, come è preparato? Sì, vabbè, esatto, non mi è capitato l'altra volta, qualche anno fa l'ho messa in un modo sbagliato, non andava. E anche a me mi è capitato, l'ho messo in un modo sbagliato e ho dovuto sposarmi. Sì, vabbè, tu posizione, non buco, Posizione anche quella. Era puntata verso... Allora. È puntata? E il pendolo mi ha detto, puntala lì, che già hai va. Ma i tasselli messi gli hai? Ma perché non ne metti? È vero, ma è vero. Allora. Io me ne vado a mangiare perché c'ho appetito. Infatti anche io chiudo là. Ciao Antonio e ciao Bombolino. Ciao. A domani. Anche me vado a soggiornare. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao Antonio. C'ho fame. Me ne vado a mangiare. Ciao. Un bacio a tutti. Ciao. E anche a te lo baracchino che la piazza da io. Io. E non mi ha mai piazzato. Mi sono goduto, ho visto le struzzi come dovevo fare e la giubbia salta. Ok dai, ciao ciao. Ciao ciao, sto andando, ciao.